Ciao a tutte e tutti gli Wombati, io sono Cecilia e sono una volontaria di Evasora Kurd, Mezzaluna Rossa Kurda, un'organizzazione locale della Siria del Nord-Est, della Confederazione Democratica della Siria del Nord-Est, che dal 2012 si occupa di sanità in tutta la regione del Nord-Est siriano diciamo in rapporto con le realtà sanitarie dell'amministrazione autonoma locale. Ecco, ci tengo anche a precisare che la Evasora Kurd è un'organizzazione che si dà ai dettami di un'organizzazione non governativa, ma non è riconosciuta perché non è riconosciuto il territorio all'interno del quale agisce appunto l'amministrazione autonoma della Siria del Nord-Est. E questo porta a tutta una serie di problemi che vedremo anche nella gestione dell'emergenza del coronavirus, che io stessa, diciamo, ho potuto esserne testimone nei mesi in cui ho lavorato con loro giù nel nord-est siriano. Una cosa che è fondamentale dire, anche per dare un po' di contorno a quello che a come può essere gestita un'emergenza sanitaria da contagio all'interno di una regione come questa, è anche diciamo, dipende dal panorama politico all'interno del quale questa si trova ad agire. Attualmente la situazione della Siria è una Siria divisa non formalmente, diciamo in tre, quindi abbiamo regioni controllate dal regime di Assad, quindi il governo vigente siriano, una seconda parte che invece è in mano all'estrema destra con aspirazioni teocratiche, che è quello che viene definito il governo ad interim siriano, che è retto, diciamo, dalla coalizione nazionale siriana pro Erdogan, che in realtà si forma nel 2012 e che vede, diciamo, come suo maggiore esponente i Fratelli Musulmani, e che è importante ricordare è quella fazione politica che dai governi internazionali, fra cui anche l'Italia, è riconosciuta come legittimo rappresentante delle volontà del popolo siriano, quindi è un governo islamista riconosciuto dalle forze di coalizione e finanziato anche da queste, e infine l'amministrazione autonoma, quindi la Siria confederale del Nord-Est, che è quella regione che ormai svalica i confini del Rojava, quindi di quella suddivisione che apparteneva al concetto del vecchio Kurdistan. Rojava significa semplicemente la zona ovest del Kurdistan, ma che è una regione che ormai va ben oltre le zone siriane a maggioranza curda, perché è diventata un'unione, una fratellanza fra popoli, quindi ad essa vi partecipano anche moltissime, moltissime arabe delle regioni a maggioranza arabe, quindi attualmente la Confederazione Democratica della Siria del Nord-Est si estende fino a oltre la regione di Hasakeh a sud, quindi fino all'area di Deir ez-Zor, che è una regione prettamente araba, e ad ovest, oltre l'Eufrate, dove è situata la città di Manbij, e lì si trova a confinare con Al-Bab e tutta l'area di Afrin, che è attualmente controllata dalla Turchia e dalle forze jihadiste, e più a sud invece insomma, è a confine con le zone controllate dal regime siriano, quindi nella regione di Aleppo. A questo c'è da aggiungere che all'interno c'è un piccolo triangolino di terra, che è la regione di Sheba, che è un enorme campo profughi che attualmente accoglie 200.000-250.000 circa persone che arrivano dalla città di Afrin, ed è un campo profughi che si dà e aderisce, diciamo, all'amministrazione autonoma del Rojava. Questa, diciamo, preambola è importante perché, diciamo, da una parte le regioni dell'amministrazione autonoma si trovano per forza in un rapporto diciamo, di dipendenza dalle regioni limitrofe. L'amministrazione autonoma non è riconosciuta e questo le porta a tutta una serie di problematiche rispetto anche a ricevere aiuti umanitari, e dall'altra è una regione che si trova a sottostare ad un embargo durissimo da anni, e le regioni in cui c'è invece più movimento anche fra stati sono quelle tendenzialmente controllate dal regime di Damasco e quelle controllate dalla Turchia. La Siria, diciamo, del regime di Damasco in particolar modo, è stata quella che ha avuto il comportamento più ambiguo fra tutti i vari paesi e il 18 marzo, quando in Iran, un paese comunque molto vicino e che ha fra l'altro diversi militari stanziati sul territorio e movimento fra i due territori, annuncia che non vi è nel paese nessun caso di coronavirus e che nessuna misura sarebbe stata messa in atto per la regione. Questa cosa è chiaramente molto strana, molto, molto particolare, ma ad oggi l'atteggiamento, diciamo, della Siria di Assad non è cambiato, cioè ha ricevuto 12.000 kit dall'Organizzazione Mondiale della Sanità per i tamponi, dichiara di averne già utilizzati 300, ma ad oggi i casi che sono stati comunicati sono circa 5, di cui fra l'altro 4 non confermati. Il 20 marzo, quindi solo 2 giorni dopo, il governo siriano consiglia una quarantena volontaria ai suoi cittadini senza quindi la presa di provvedimenti particolari e tendenzialmente mantiene questo atteggiamento di sottostima del problema per tutta la durata fino ad oggi. Dall'altra parte andiamo a vedere come invece l'amministrazione autonoma si è mossa e si sta muovendo nelle regioni della Siria del Nord-Est. Ecco, il 21 marzo la Siria del Nord-Est dichiara il coprifuoco alle 18 e dichiara il blocco del circolo fra le varie regioni e dal 23 marzo subito impone la chiusura di negozi, di scuole, università e qualunque tipo di luogo di ritrovo. Vengono introdotte anche delle misure economiche, per esempio vengono esonerati dal lavoro il 40% dei lavoratori delle panetterie del Rojava. Pensate che il pane, insomma, io ve lo posso dire essendoci state proprio la base dell'alimentazione per motivi sia culturali ma anche tendenzialmente imposta appunto anche lì sempre dall'embargo e quindi da un'economia tendenzialmente imposta. Ma quello che si vede fin dall'inizio è proprio una risposta da parte della popolazione. Il comandante Maslum dichiara il 100% della popolazione della Siria del Nord-Est che si adegua alle misure. E non solo, diciamo, in questa regione vanno a fiorire tutta una serie di misure popolari, di provvedimenti presi dai consigli di quartiere, come tendenzialmente una campagna su larga scala per la sterilizzazione delle strade, un'imposizione e vengono annoverati casi di autoimposizione di prezzi sui beni di prima necessità. Ed in più si vede, per esempio, nei consigli di quartiere, già iniziata dal 30 di marzo, la raccolta dei nomi delle famiglie da aiutare durante la quarantena e così via. Quello che però noi tutti dobbiamo avere bene in testa è che è ben diverso che cosa può voler dire la diffusione di un contagio, di un virus come questo, in una regione, in cui si sono consumati 8 anni di guerra e dal 9 di ottobre vi è una nuova offensiva in atto, un'offensiva che ha una linea di fronte precisa e che quindi ha delle zone che vengono costantemente attaccate e dall'altra è una linea di fronte fittizia ed interna che è data dalle decine di miliziani, decine e decine di cellule dormienti e non più che sono svegliate dell'ISIS all'interno dei territori del nord-est siriano. Un'altra cosa chiaramente da annoverare è la situazione umanitaria preesistente al virus, quindi parliamo della regione che ha circa 6 campi profughi riconosciuti che tengono all'interno dalle 15.000 alle ormai 100.000 persone, il totale, diciamo, dei profughi che viene annoverato sono circa 600.000. E la popolazione che fa parte dei campi profughi è una popolazione estremamente malata. Sono patologie diffusissime all'interno dei campi profughi come la leishmaniosi, ma è una popolazione tendenzialmente debilitata, una popolazione denutrita. La denutrizione causa indebolimento delle difese immunitarie. ma non solo, ecco, anche dal punto di vista psicologico, tutte le misure che noi riusciamo ad immaginare e che anche l'amministrazione autonoma ha messo in atto all'interno delle città non sono le stesse che possono essere, diciamo, messe in atto con la stessa leggerezza all'interno dei campi profughi. Vietare l'assembramento in un campo profughi è una cosa enorme, complicatissima. Parliamo di persone che non hanno delle case, hanno delle tende dove esiste una zona sola di mercato e quindi è necessario per l'approvvigionamento del cibo andare a riferirsi a queste zone del campo. In particolare vengono fatti, diciamo, dai Vassor due allarmi, uno il 21 di marzo che riguarda la situazione del campo profughi di Sheba, che denuncia le condizioni di vita dei profughi, di vita, diciamo, degli sfollati di Afrin in quella zona. E De Vassor in più denuncia un bombardamento ai suoi danni proprio quel giorno, con danneggiamenti della clinica, in una situazione in cui i colpi di mortaio da parte dei jihadisti e della Turchia non si sono mai fermati in questi anni, ma ad oggi continuano. E fin fra l'altro dal marzo del 2018, fin quindi dalla caduta di Afrin, le vie d'uscita verso, in particolare quella verso Aleppo, è bloccata dal regime siriano che fa passare tendenzialmente solo in cambio di enormi somme di denaro o in cambio dell'arruolamento dei giovani all'interno dell'esercito siriano. E ecco, questo ovviamente provoca un isolamento di queste persone che non hanno neanche la possibilità di lasciare il campo. A Sheba non c'è nemmeno un kit per il coronavirus, questo è estendibile in tutta la regione del nord-est siriano, quindi non vi è un modo per diciamo, testimoniare la presenza o meno del virus. Il 29 marzo arriva un'altra denuncia, che è quella del campo profughi di Tel Abyad o Gerizpih, che è una città di confine che è attualmente occupata dalla Turchia, ma vi è un campo profughi proprio sul limitare, e anche questi denunciano la situazione terribile in cui versano gli sfollati. In questo panorama, diciamo, a rincarare la dose c'è sempre la Turchia di mezzo, perché il 29 marzo, per la quinta volta in un mese, la Turchia chiude l'acqua della diga di Aluk. Aluk è una diga fondamentale per l'approvvigionamento di acqua della regione di Hasakeh, che è una regione leggermente, diciamo, più interna rispetto alla zona di confine, e lascia a secco tutta la provincia con circa 400.000-500.000 persone, una provincia stepposa che fra l'altro è nelle zone più desertiche controllate dall'amministrazione autonoma, e soprattutto quando parliamo di Hasakeh dobbiamo ricordarci che parliamo di tre fra i più grossi campi profughi presenti in tutta la regione del nord-est siriano, e di due dei migliori ospedali presenti in tutta l'area, cioè l'ospedale di Tel Temir e l'ospedale di Hasakeh. L'ospedale di Tel Temir è stato fra l'altro costruito con soldi italiani, delle compagne e dei compagni che hanno donato la Mezzaluna Rossa Kurdistan per la costruzione di quell'ospedale. Ci tengo a ricordare che la guerra dell'acqua è una guerra che viene portata avanti da Erdogan da anni, con tutto un piano di dighe in Bakur sul Tigri e l'Eufrate per il controllo dell'acqua a valle, ed è una situazione fra l'altro affine a quella dei palestinesi che subiscono il controllo d'acqua da parte di Israele, ma bisogna immaginare che cosa vuol dire. Che cosa può voler dire in una regione la mancanza di acqua, in un ospedale la mancanza di acqua, in una situazione in cui a noi viene detto di lavarci le mani 10 volte al giorno? Fortunatamente, diciamo, organi internazionali si sono espressi su questo senza che nessun tipo di azione sia stata portata avanti per interrompere sia gli attacchi che per sancire, diciamo, il fatto che non potesse più essere, che non si potesse verificare un'altra volta un'interruzione di acqua. Il 23 di marzo si esprime l'UNICEF a riguardo, ma niente ancora è stato fatto. Ecco, per concludere, non bisogna dimenticare che il nord-est siriano, l'amministrazione autonoma, si fa carico di circa 60.000-70.000 profughi dell'ISIS, quindi famiglie dell'ISIS, fra cui anche miliziani nelle carceri. E ad a questi si aggiungono i profughi di Idlib, cioè c'è una grossa fetta di popolazione che sta fuggendo dalle regioni di Idlib, dove si stanno perpetrando dei crimini d'umanità enormi per mano del regime siriano con bombardamenti chimici, e molte di queste persone sono fuggite verso i campi profughi di Sheba in altre zone del nord-est siriano. I profughi sono arrivati in questi anni anche addirittura dall'Iraq. I profughi yazidi. Per andare verso una conclusione, ecco, le dotazioni presenti in questa situazione, ripeto, una situazione di guerra, sono fondamentalmente, parliamo di 4-5 milioni di persone, sono due grossi ospedali, circa 400 posti letto in totale. Sette ventilatori a cui però si è aggiunto, diciamo, in questi giorni un'autoproduzione diretta fatta dalle giovani e i giovani presenti in tutto il nord-est siriano, che si sono applicati per creare in autoproduzione dei nuovi ventilatori. Tre terapie intensive, di cui solo due funzionanti, per un totale di 28 posti letto in totale, cioè c'è chi riporta il numero di 40, ma in realtà funzionanti attivi sono solo 28, e nessun kit per il test per il coronavirus. Ecco, questo è l'unico caso, penso, mondiale in cui ci si trova completamente scoperti davanti a questa pandemia. Però, a differenza degli altri paesi, questo non si verifica perché negli ultimi anni sono stati tagliati ripetutamente fondi alla sanità, che hanno portato appunto a trovarsi scoperti di fronte a questa emergenza. In Rojava sono proprio questi anni in cui sta ricostruendo il sistema sanitario del suo territorio, nonostante e con tutte le difficoltà date dall'embargo imposto dalla Turchia per le che riguarda tutto, riguarda la costruzione di infrastrutture, riguarda i medicinali, riguarda gli approvvigionamenti sanitari di qualunque tipo. E blocca inoltre anche l'operato di ONG e istituzioni come organi mondiali della sanità, chiare e continuative, proprio perché manca il riconoscimento politico di quell'amministrazione. È quindi un dovere per noi, e chiudo per davvero, in questo momento supportare il più possibile la regione autonoma della Confederazione Democratica della Siria del Nord e dell'Est, da una parte richiedendone immediatamente il riconoscimento politico, dall'altra con aiuti umanitari ed economici, e su questo vi rimando alle donazioni che potete fare alla Mezzaluna Rossa Kurdistan Italia Onlus, che sono fondi che arrivano direttamente tutti a Evassora Kurd, quindi a Rojava, su un conto bancario di cui provo a leggere i numeri. Comunque trovate tutto sul sito della Mezzaluna Rossa Kurdistan Italia Onlus. Quindi il conto è 10000013226, intestato a Mezzaluna Rossa Kurdistan Italia Onlus. L'IBAN è IT19L0306 6909 6061 0000 0132226. Concludo ringraziando tantissimo i compagni e le compagne di Radio Wombat per questo spazio, e con un abbraccio enorme a Eddie, condannata a sorveglianza speciale per 2 anni, a cui va tutto il nostro appoggio, tutta la nostra solidarietà, e compagni e le compagne che lottano in questo momento in Rojava per l'ennesima emergenza. Biji Rojava, a presto!